Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a tutti a Salva Danaio. Oggi numero speciale delle Sole 24 Ore su risparmio e mercati. E Salva Danaio ne attinge a piene mani, come fa sempre, presentandovi la guida pratica banche e risparmio, come tagliare i costi in banca. Tutto quello che c'è da sapere per risparmiare sui servizi delle banche, dai conti correnti ai mutui, dal credito al consumo ai depositi titoli. Il Sole, ve lo ricordo, presenta anche una serie di pagine speciali questa mattina sul piano Salva Grecia, dedicate agli effetti sui mercati finanziari e di conseguenza sui portafogli di risparmiatori ed investitori, appunto le conseguenze dell'accordo definito nel vertice europeo. Tornando alla guida pratica, noi abbiamo scelto di approfondire le novità recenti che sono intervenute nel settore del credito al consumo, quindi parliamo di prestiti e finanziamenti. Nuove norme che tutelano la trasparenza nel rapporto fra consumatori e istituti bancari per questo tipo di contratti. Sono cambiate le disposizioni sulla composizione e il calcolo delle TAEG, che è il tasso complessivo applicato al finanziamento. Sono cambiate le disposizioni sull'emmerito creditizio, cioè la valutazione in base a cui la banca stima l'affidabilità del potenziale fruitore del finanziamento. Ci sono anche delle novità rilevanti sul diritto di recesso dalla richiesta di prestito. Allora noi questa mattina ritorniamo su queste nuove regole che sono in vigore dal 1 giugno. Non ne avevamo ancora parlato, quindi abbiamo colto molto volentieri l'occasione, appunto, della pubblicazione della Guida del Sole per poterlo fare. Nicola Borzi, il Sole 24 Ore, buongiorno, bentornato. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E ringrazio per essere con noi anche il professor Umberto Filotto, segretario generale di Assofin, che è l'organizzazione delle società, appunto, del credito. Buongiorno e benvenuto, bentornato, anzi buona giornata. Buongiorno a voi. 800 24 00 24, vi ricordo come sempre il numero per intervenire. Ci potete raccontare intanto le vostre esigenze di prestito, sono cambiate negli ultimi tempi anche alla luce della crisi finanziaria che ancora sta mordendo a vario livello. Avete deciso di ristrutturare casa, siete in procinto di chiedere un finanziamento. Come vi state muovendo anche tra le istituzioni finanziarie? Con che criterio state facendo la vostra scelta? Oppure avete fatto un prestito in passato, siete rimasti scottati, non riuscite a ripagare le rate? Come vi siete organizzati anche nei momenti di difficoltà? Raccontatecelo non solo al numero verde, se volete anche al 349-238-6666 o l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Peraltro, già raccontiamolo subito, Nicola, se vuoi, la guida pratica funziona esattamente come le altre. C'è l'opportunità da parte dei lettori del Sole di inviarvi delle domande. A quale indirizzo, chi risponde e su quali temi? Beh, allora, le domande possono essere inviate fino alle 18 di oggi. Il sito internet è quello del sole24ore.com/costibanca. Risponde un panel di esperti del Sole 24 Ore, tra cui alcuni dei nostri giornalisti che si occupano di questi temi e alcuni operatori specializzati. Ovviamente chiediamo il più possibile delle domande specifiche, non delle domande generiche, perché ci interessano i casi precisi. Diciamo che per le domande generiche risponde la guida, esatto. Complessivamente, per le domande un po' più precise invece ci sono gli esperti. Ho visto che avete interpellato anche, scusa, affettivamente lo faccio, Fabio Picciolini di Adiconsum, che è un nostro caro amico, ci aiuta moltissimo a Salva Danaio. Ho visto che è stato interpellato anche lui come in qualità di esperto, appunto, per rispondere alle domande dei lettori del Sole. C'è anche un'altra cosa molto interessante, la possibilità di utilizzare un test online per verificare le proprie competenze nella gestione del denaro. Sì, è uno dei temi che stiamo cercando di sviluppare complessivamente come gruppo e anche come testata, come Plus 24, oltre che nelle Guide del Sole, il tema dell'educazione finanziaria. Riteniamo uno dei temi fondamentali dei prossimi anni in questo paese. Allora, andiamo a vedere intanto la borsa, come si sta comportando questa mattina dopo le anticipazioni che abbiamo fatto nel giornale radio. Naturalmente una borsa che risponde con grande consenso e grande favore, grande ottimismo all'accordo europeo della nota, appunto, nuovo salvataggio della Grecia, questo stanziamento da 160 miliardi di euro concordato tra le istituzioni europee e il Fondo Monetario Internazionale per la Grecia, ma soprattutto per scongiurare un rischio domino devastante tra gli altri paesi dell'Eurozona, visto che i possibili effetti li abbiamo già visti anche sui mercati nelle scorse settimane. Parigi sale dell'1,18%, Francoforte più 0,7%, Londra in rialzo di un punto, Milano in questo momento riguadagna la palma di regina d'Europa più 1,12%, sta mettendo a segno la miglior performance, come ha fatto ieri, con un guadagno del 3,75% sul finale per Milano. Grande spolvero anche l'euro, stamattina guadagna terreno sul dollaro a 1,4414. Probabilmente il dollaro risente anche delle difficoltà che sta segnando appunto il congresso americano nel trovare l'accordo per innalzare il tetto legale del debito pubblico. A Milano i migliori titoli in questo momento: Fondiaria più 4,75, anche se Fondiaria più che dell'accordo per la Grecia vive sulle montagne russe per tutt'altre ragioni domestiche, tutte sue. Fiat Industrial più 3,41, Exor più 3,39, quindi vedo bene la galassia Fiat. Stamattina anche i titoli SPA in rialzo di 3 punti. E nel Green Power più 3 per la galassia Fiat, per la verità c'è questo buon andamento dopo la notizia che la casa automobilistica appunto torinese ha ufficialmente preso la maggioranza dell'americana Chrysler, rilevando appunto le quote in mano ai governi statunitense e canadese. Buzzi Unicem più 2,99, Mediolanum più 2,76, stanno tutti consolidando le loro posizioni i titoli del credito, con l'unica eccezione di Unicredit, perché Piazza Cordusio da stamattina frena e perde mezzo punto percentuale, ma comunque è andata molto in corsa nelle ultime sedute. Il peggior titolo è Luxottica, che perde l'1 87%, ancora in discesa Parmalat. Da quando si è conclusa l'OPA dei francesi di Lactalis, il titolo ha perso smalto e speculazione e quindi è in frenata notevole. E poi abbiamo Finmeccanica in calo dello 0,6%. Lo spread tra BTP e Bund si è riportato a 225 punti base, siamo sui livelli dell'8 luglio scorso e quindi il tasso di rendimento del BTP decennale è sceso al 5,19%. Nicola, guarda, visto che abbiamo dato tutta l'informazione di servizio, domani gran paginone su Plus 24 Copertina. Su questo tema, Copertina. Servizio di Copertina e Plus 24 dedicato proprio a questi ondeggiamenti abbastanza paurosi anche dei titoli pubblici italiani, che hanno visto prima salire i rendimenti in maniera vertiginosa e poi nella giornata di ieri tornare in basso, e quindi si sono create sia purtroppo alcune perdite pesanti per chi li aveva già in portafoglio, che anche opportunità di acquisto che sicuramente qualcuno ha sfruttato. Allora ci fermiamo con la borsa, andiamo invece adesso con la nostra scheda al tema di questa mattina. Parliamo di prestiti e finanziamenti, tutto ciò che attiene al mondo del credito al consumo e le nuove regole che sono entrate a regime dal 1 giugno. Il risparmio passa anche attraverso la riduzione delle spese in banca, che ogni anno occupano una voce non indifferente tra le uscite del bilancio familiare. Dai conti correnti ai mutui, dalle polizze al conto titoli. Per riuscire davvero a tagliare, è sempre più importante restare aggiornati sulle novità e le regole che riguardano il funzionamento di questi strumenti. È il caso del credito al consumo, ambito nel quale dall'inizio di giugno sono state introdotte nuove norme sulla trasparenza nel rapporto tra consumatori e istituti bancari. In questa categoria di contratti rientrano i prestiti personali, quelli finalizzati all'acquisto di un bene, le carte revolving e le operazioni di cessione del quinto dello stipendio. Chi li ha sottoscritti o ha intenzione di sottoscriverli dovrà quindi fare attenzione ad alcune novità. Sono cambiate le disposizioni sulla composizione e il calcolo del TAEG, tasso annuo effettivo globale, unico dato fondamentale da controllare quando si prende in considerazione il finanziamento, da distinguere dal TAN, che non tiene conto di alcune voci. Ed è cambiato il concetto del merito creditizio, la valutazione in base alla quale la banca stima l'affidabilità del potenziale fruitore. Bisognerà fare attenzione, inoltre, alle nuove disposizioni sulle modifiche delle condizioni contrattuali. Per i finanziamenti, ad esempio, sarà impossibile prevedere la variazione dei tassi. Viene poi esteso a 14 giorni il diritto di recesso in tutti i casi di sottoscrizione. Una buona uscita di sicurezza per il consumatore, che entro le 2 settimane dalla firma potrà fare marcia indietro senza pagare penali e senza dover motivare la decisione. Uniche condizioni: inviare la richiesta in raccomandata alla società finanziatrice e rimborsare entro 30 giorni il capitale già ricevuto e gli interessi maturati. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Potete chiederci dei chiarimenti sulle novità relative alle regole del credito al consumo che sono entrate a regime dal 1 giugno, tutto questo in un'ottica di ottemperanza di una direttiva comunitaria della quale parliamo già da diversi anni, oppure potete chiederci altro, come muovervi all'interno del mercato, quali sono le regole per poter fare una scelta di finanziamento che sia la più appropriata in relazione alle proprie esigenze. Allora vi ricordo ancora ancora il numero verde, l'800 24 0024, oppure scriveteci al 349 238 6666 o a salvadanaio@radio24.it. Ho aperto il monitor davanti a me, quindi leggo anche le vostre mail un po' più articolate. Umberto Filotto, il professor Umberto Filotto è il segretario generale di Assofin, che è l'organizzazione delle banche, delle società finanziarie appunto che erogano prestiti e finanziamenti. Professor Filotto, da quando ha esteso tutte le sue regole, appunto la nuova normativa sul mercato, ci sono stati degli impatti oppure non ci sono stati molti movimenti? Ho letto una statistica recente relativamente al giro d'affari dell'industria e nei primi 5 mesi di quest'anno sono state concluse quasi 50 milioni di operazioni per un controvalore totale di quasi 23 miliardi di euro, quindi possiamo definirlo, quello del credito al consumo, un mercato che sta viaggiando in maniera positiva oppure risente anche delle difficoltà economiche generali delle famiglie? Ma dunque, noi non abbiamo dati in questo momento che diciamo vadano oltre che risentano dell'entrata in vigore delle nuove norme. Il mercato complessivamente è un mercato che ovviamente risente della situazione di crisi, nel senso che le famiglie nel momento in cui hanno delle prospettive reddituali non brillanti, e purtroppo questa è la situazione in questo momento, ovviamente sono molto più attente, molto più prudenti nei consumi, dunque anche nel ricorso al credito. Il dato che abbiamo a fine giugno per quanto riguarda le erogazioni vede un meno 1,6%. Sull'anno precedente, professor Filotto, qual è? Rispetto allo stesso periodo del 2010, quindi rispetto all'erogato gennaio-giugno 2010, l'erogato gennaio-giugno 2011 è meno 1,6%. Per quanto riguarda il numero di operazioni, lei ha citato giustamente il nostro dato, ecco, teniamo presente che le oltre 50 milioni di operazioni sono condizionate dal fatto che noi contiamo le transazioni su carta di credito, le operazioni diciamo di finanziamento al netto delle transazioni su carta di credito sono circa 3 milioni a fine giugno. Tanto per fare una considerazione aggiuntiva sullo stato di salute del settore, perché sa, magari molti ascoltatori potrebbero dire vabbè, il mercato è calato dell'1,6%, che percentuale preoccupante sarà mai, no? In realtà in certi mercati anche una percentuale così ridotta, secondo il nostro magari giudizio superficiale, è una percentuale invece molto importante. Lo notiamo per esempio quando parliamo di consumi, quando le vendite al dettaglio scendono appena di un punto percentuale, in realtà ci si preoccupa parecchio. È una percentuale preoccupante, professor Filotto? Guardi, non è di per sé una percentuale preoccupante, ma è da tenere presente che si inserisce in un trend che a partire dal sostanzialmente 2009-2010, a questo punto anche 2011, è un trend negativo e negli anni precedenti ha segnato anche riduzioni nell'ordine dell'11%, quindi meno 11%. Quindi stiamo parlando di un dato negativo su un precedente dato negativo, quindi c'è sicuramente una situazione di contrazione dei consumi e dunque anche del ricorso al credito. Sì, Nicola Borzi, allora come avete affrontato sulla guida di questa mattina il tema del credito al consumo che definite un rubinetto da aprire con cautela? L'abbiamo affrontato proprio da questo punto di vista, dal punto di vista del cliente che si trova di fronte a un mercato nel quale le offerte abbondano e nelle quali insieme a un consistente numero di operatori, specialmente quelli riuniti in Assofin, che hanno adottato delle politiche molto intelligenti per evitare ad esempio il problema dell'indebitamento eccessivo delle famiglie, ci sono anche operatori marginali, sempre meno va detto, che invece utilizzano dei comportamenti che in qualche modo sono ancora grigi, quindi bisogna selezionare innanzitutto con cura le offerte e quindi a monte la controparte. E dall'altro lato all'interno delle offerte andare a cercare di individuare anche quella che è tagliata sulle proprie esigenze anche dal punto di vista delle forme contrattuali, perché non tutte le offerte di credito al consumo sono uguali, non tutte hanno gli stessi costi. Basti pensare che secondo il calcolo delle soglie dei tassi di usura di Banca Italia, valido dal 1 luglio al 30 di settembre, la soglia di usura ad esempio per il credito revolving supera il 25% annuo, quindi non è sicuramente il tasso medio di mercato, che è un tasso medio più basso, è al 17,65, ma è comunque un tasso molto oneroso. All'interno del settore ci sono dei tassi che invece viaggiano attorno al 10%, quindi 7 punti percentuali di differenza sul tasso medio non sono pochi. Quando tu parli di operatori che hanno adottato una politica molto intelligente nell'erogazione del credito, che cosa intendi esattamente? Che tipo di cambiamento di atteggiamento stanno avendo? Ma c'è una rivoluzione culturale dal punto di vista degli operatori, che è stata guidata dagli operatori stessi attraverso anche le loro forme associative come Asofin, di cui abbiamo il telefono il segretario generale. Abbiamo in anni lontani vissuto, come dire, una stagione nella quale non tutti cercavano di trovare un cliente consapevole. Oggi come oggi invece la consapevolezza del cliente al momento in cui si approccia al contratto è fondamentale ed è prevista tra l'altro anche dalla legge. Questo vale per l'Italia ma vale anche per l'estero. Negli Stati Uniti ad esempio le forme di risposta anche legislativa al cosiddetto fenomeno del predatory lending, cioè del prestito predatorio, sono esplose dopo il 2008 con tutta la stagione dei grandi problemi bancari dovuti agli affidamenti e anche ai mutui subprime concessi a persone che in realtà non erano fin dall'inizio in condizione di far fronte agli impegni che si quindi insomma prendevano. Un settore, un mercato che sta diventando più razionale e consapevole. 800 24 00 24, il numero verde che nel frattempo vi dà l'opportunità di porci le vostre domande se ne avete sull'argomento. Noi ci fermiamo per pochissimi minuti. Salvadanaio oggi torna ad attingere alla guida pratica del Sole 24 Ore. Oggi è molto ricca e molto interessante, vi riguarda tutti, banche e risparmio, come tagliare i costi in banca. Noi stiamo vivisezionando il tema del credito al consumo, prestiti e finanziamenti, la nuova disciplina normativa in vigore dal 1 giugno, tutta quella che è contenuta nel decreto legislativo 141 nel 2010, che ha recepito a sua volta una direttiva comunitaria, un procedimento che è stato piuttosto lungo ed articolato. Ora ci siamo e quindi i prestiti e finanziamenti sono regolati da una normativa leggermente diversa rispetto al passato, ma viaggia tutta quanta in un'ottica di un rapporto di maggior trasparenza fra consumatori e industria finanziaria. 800 24 00 24 per le vostre domande. Non abbiamo detto però effettivamente quali sono le novità più importanti, lo abbiamo fatto parzialmente nella nostra scheda, introdotte dalla normativa. Ci può aiutare il professor Umberto Filotto, segretario generale di Assofin. Professore, quali sono appunto quelle che secondo l'industria sono state le novità più interessanti? Ma ci sono novità importanti un po' a tutto tondo, partendo da quanto diceva prima il dottor Borzi, cioè ci sarà un forte cambiamento nell'offerta, perché la norma non riguarda solo il recepimento della direttiva sul credito al consumo, ma incide profondamente anche sulla disciplina di intermediari finanziari non bancari, quindi ci sarà un processo di maggior concentrazione in qualche misura del settore sotto opposizione alla vigilanza di Banca d'Italia. E poi c'è una profonda revisione della normativa sulla distribuzione del credito attraverso agenti e mediatori, e tutto questo ha sicuramente la finalità e l'obiettivo di portare i consumatori a interagire con strutture, se vogliamo, più professionali e sottoposte a forme di controllo più penetranti. Poi c'è quello che gli operatori devono fare, ci sono iniziative credo importanti per trasformare le norme che la legge in qualche misura impone in qualcosa di più fruibile. Mi spiego. La direttiva definisce tutta una serie di obblighi informativi molto articolati, i consumatori devono essere messi a disposizione moltissime informazioni, sia in fase cosiddetta precontrattuale, sia in fase contrattuale, attraverso la pubblicità, attraverso l'offerta di questo modulo a cui ci si riferisce col termine di SECCI, che elenca tutte le caratteristiche dell'offerta che il consumatore potrebbe decidere di accettare. Sono tutti elementi importanti, il cui unico difetto forse è di non tener conto che i consumatori hanno tempi e attenzioni limitate. Quindi un grosso sforzo che l'industria sta facendo, lo stiamo facendo anche noi come Assofin, anche attraverso il lancio di questa iniziativa che si chiama Monitorata, sì. È proprio quello di rendere più comprensibile, più semplice l'informazione che viene messa a disposizione del consumatore. E comunque lei ha giustamente citato monitorata, perché poi prima di andare a verificare tutta la disciplina normativa del credito al consumo, intanto dobbiamo essere in grado di stabilire se finanziariamente siamo in grado di sopportare un prestito e di onorare appunto le rate che arriveranno, anche se si tratta di un piccolo prestito, qualche volta comunque incide e non poco nell'ambito del budget familiare. Come funziona monitorata, professor Umberto Filotto? Dove la troviamo intanto? Sul sito di Assofin? Si può arrivarci attraverso il sito di Assofin, così come attraverso il sito di alcune associate Assofin e anche di alcune associazioni di consumatori. Di per sé comunque monitorata ha un proprio sito, che è www.monitorata.it, è da tenere, voglio dirlo innanzitutto, completamente gratuito, totalmente anonimo, nel senso che non è necessario dare i propri dati per poter fruire del servizio, e quindi lo strumento non può avere finalità di tipo commerciale, è proprio uno strumento di servizio. Come funziona? In realtà possiamo dire che è articolato in due sezioni, una sezione con una sezione appunto che serve a comprendere qual è la propria capacità di ricorso al credito, partendo dalla rata che una persona sta pensando di, diciamo, relativa al finanziamento che una persona sta pensando di richiedere. Si parte da lì e, mettendo una serie di dati che riguardano la propria situazione economica, le proprie caratteristiche familiari, quanti figli, quante persone in famiglia hanno un reddito, insomma tutti questi elementi abbastanza comunque facili da acquisire, si riesce a capire qual è la propria capacità di ricorso al credito. Un'altra sezione, che in qualche misura si è combinata a questa, invece permette di sapere qualcosa di più del credito, e quindi che cos'è un finanziamento, cos'è un tasso fisso, cos'è un tasso variabile, quali sono, anche qui c'è, anche noi abbiamo un piccolo test per capire quali sono le proprie conoscenze e come migliorarle, in modo tale che le persone siano proprio messe in condizione, in modo molto semplice, non c'è nulla di difficile, è proprio tutto studiato per essere facilmente accessibile, come usare bene il credito. Allora, andiamo a cominciare a sentire le domande dei nostri ascoltatori, intanto sul tema di questa mattina, cominciando con Mirko da Padova. Buongiorno Mirko. Sì, buongiorno a lei. Ti dica tutto. Complimenti per la trasmissione. Senta, io proprio volevo dire questa cosa qui, nel senso che è vero che le persone sono diventate più accorte nel prendere questi finanziamenti, però è anche vero che nessuno fa niente per stimolare questi finanziamenti, soprattutto in un momento di crisi come questo. E io parlo per cognizione di causa, perché ormai sono tra 20 anni che io usufruisco di questi servizi, e le faccio proprio un classico esempio che c'è anche alla televisione in questi giorni, e senza far nomi, l'omino verde, il TAEG 8,64. Cioè, voglio dire, ma stiamo scherzando? Per un prestito di che lunghezza e di che importo, Mirko? Su un prestito anche rateizzato di un'automobile, che è il classico 5 anni, 60 mesi, voglio dire, o qualsiasi altro, un credito al consumo, un semplice credito al consumo, voglio dire, senza nessuna garanzia, per carità. Però stiamo parlando di tassi che nemmeno prima che iniziasse la crisi c'erano. Voglio dire, ora che c'è la crisi, mi mettete un tasso 8,64, che è nel generale di tutte le finanziarie, di tutte le banche, se andiamo a vedere, tasso un punto in più, un punto meno, voglio dire, non mi stai facendo niente per stimolare il mercato, anzi, fai sì che chi ha voglia di fare qualcosa, di rinnovare qualcosa, ci pensi due volte o addirittura non lo faccia. Tu in questo momento stai fermando il mercato, non lo stai incentivando con questi tassi qui. Allora Mirko, insomma, un grande sponsor del tema del credito al consumo, vabbè, adesso a parte per esigenze personali, dice che è stato appunto un grande fruitore di finanziamenti, e con tutto il rispetto ovviamente si parla anche di queste situazioni di molte famiglie. Lui si riferiva ad una pubblicità di una nota società, Lumino Verde, io credo che si riferisca appunto a Findomestic, parlava di una pubblicità che aveva visto, che promuoveva appunto questo prestito all'8,64. Per quale tipologia, Nicola Borsi, di prestito si può arrivare a doverla remunerare appunto con un tasso di questo tipo? Le indicazioni medie di Banca d'Italia sono tutte superiori, almeno secondo le... Ah, quindi addirittura è una buona offerta, lui la contesta tanto... È un'offerta che paga 2 punti percentuali in meno del credito rateale oltre 5.000 euro, secondo le... quasi 2 punti in meno, insomma. per cui non mi sembra un'offerta così malvagia. Certo, l'8,64 è comunque un tasso in sé elevato, perché oggi come oggi strumenti finanziari che rendano una somma di questo genere se non vuole compensare, sono, se ci sono, sono molto rischiosi, infatti inaccessibili, è meglio così, direi. Diciamo, ho come la sensazione che abbiamo avuto qualche bond come, greco di con i bond greci credo che in questo momento rendano molto di più, anche ma di che più, no, le scadenze più brevi forse ne, no, però vabbè, siamo al, no, il biennale addirittura forse il 30%, vabbè, adesso non me li ricordo. Ho come la sensazione però che il nostro interlocutore fosse più che un cliente del credito al consumo, un intermediario che vende beni molto spesso finanziati da credito al consumo. Ah, ecco, quindi, e che quindi magari sconta anche, oltre alla crisi del suo settore, il costo del credito. Allora, andiamo a Giuseppe da Verona. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo fare una domanda su questa nuova normativa. Sì. Praticamente io sono uno dei tanti lavoratori atipici che ci sono in Italia. Sì. Io lavoro da 14 anni presso una nota azienda con contratto stagionale. Però c'è sempre la difficoltà di avere accesso a credito a consumo, anche per rate piccole e soldi piccoli, insomma, rate sì, da sì, è vero Giuseppe, euro. È vero, è vero. Allora volevo capire se magari in un futuro immediato le banche o le finanziarie aprono, soprattutto a persone che dimostrano una continuità lavorativa da tanti anni, anche questo credito a consumo, perché è sempre un'odissea chiedere un prestito e poi viene sempre respinto. Giuseppe, la ringrazio. Chiediamo alla rappresentante dell'industria. Qualche tempo fa sì, molte banche si erano proposte sul mercato proprio con la categoria dei mutui per atipici, poi per la verità sono diventati anche per questa categoria i mutui normali, non è stata più fatta questa differenziazione. Detto questo, le persone che non hanno contratti di lavoro a tempo indeterminato, professor Umberto Filotto, sono praticamente quasi esclusi dal mercato, a meno che per esempio magari figura anagraficamente molto giovane, non vadano in banca con mamma e papà e non siano dotati appunto di garanzie molto, molto forti. Sta cambiando qualcosa nel mercato o ancora non è il momento? Ma guardi, è innegabile che purtroppo per le persone che hanno, diciamo, i rapporti di lavoro meno tra virgolette stabili, anche se poi sulla stabilità ci sarebbe molto da dire, hanno maggiori difficoltà, però è chiaro che sta cambiando il nostro mondo, sta cambiando la società ed è evidente che sempre più persone hanno dei contratti che non sono a tempo indeterminato e quindi è gioco forza che si adeguino i sistemi di valutazione, si adeguino i criteri di concessione del merito creditizio. Da questo punto di vista è essenziale che la disponibilità di informazioni, le centrali rischi, i SIC possano funzionare bene e purtroppo non tutte le modifiche normative anche recenti vanno in questa direzione, quindi bisogna migliorare i sistemi di valutazione del credito, renderli compatibili con una nuova società e bisogna però anche che la normativa ci dia una mano. Nicola, volevi intervenire sull'argomento, ti appassiona? Ma l'argomento mi appassiona sì, perché questa è una delle tante piaghe sociali che colpiscono la parte più debole della nostra società. Io continuo a ritenere che i lavoratori con i contratti di lavoro cosiddetti atipici dovrebbero essere tutelati allo stesso modo e forse di più dei lavoratori a tempo indeterminato e quindi da questo punto di vista sono un sostenitore di una riforma che consenta anche a queste persone di avere un accesso al credito equo come tutti gli altri cittadini, perché oggi il credito è un diritto e credo che sia un diritto fondamentale. Facciamo un po' di ABC del credito, Nicola. Ci racconti, ci spieghi un po' quali tipologie di prestito ci sono sul mercato, i prestiti personali, finalizzati, la cessione del quinto dello stipendio. C'è un mercato molto ricco? Il mercato è molto variegato. Il prestito personale è quello che viene erogato senza una motivazione obbligatoria fin dall'inizio, non è collegato all'acquisto di un bene o servizio. Questa è la differenza sostanziale con il prestito finalizzato, che invece è collegato all'acquisto di un prodotto. Poi c'è la cessione del quinto dello stipendio della pensione, che è un'altra forma contrattuale legata per l'appunto alla possibilità di indebitarsi a fronte di un reddito da lavoro dipendente o indipendente o di una pensione fino al 20% della somma c'è percepita. C'è un po' la garanzia e del datore di lavoro dell'istituto di previdenza, esatto. E praticamente la restituzione avviene direttamente dalla busta paga oppure dall'assegno, esatto. Poi pensionistico. Poi invece c'è il credito revolving, che è quello collegato alle carte di credito cosiddette rotative, cioè nelle quali c'è un'apertura di linea di credito a fronte del cui utilizzo si va a rimborsare periodicamente la somma che è stata dopo una fiammata sul mercato di qualche anno fa adesso hanno perso molto smalto perché effettivamente si era scoperto pagando che il 17% medio di tasso di interesse. hanno un po' perso appunto tutto quel successo che hanno avuto in un momento, anche perché appunto poi ci si sono ritrovate, anche perché per la verità la loro distribuzione avveniva in maniera poco chiara, molte famiglie insomma magari facendo un tipo di prestito se li ritrovavano a casa con delle buste a sorpresa. Vabbè, questo è un tema che abbiamo affrontato in passato anche proprio con lo stesso professor Filotto. Comunque abbiamo conosciuto un po' le tipologie di prestito a cui possiamo sottoscrivere nel nostro mercato. Adesso ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio e poi ancora le vostre domande. 800 24 00 24 è il numero verde per le domande degli ascoltatori. Questa mattina non li stiamo invitando a indebitarsi, naturalmente stiamo solo cercando di capire quali sono i parametri corretti da tenere sotto osservazione quando abbiamo la necessità di fare un prestito, un finanziamento per acquistare o il frigorifero nuovo oppure fare acquisti di portata più grande, tutto l'arredamento della casa, le spese per la ristrutturazione che mediamente appunto vengono finanziate a rate, quindi quali sono i tassi praticati dal mercato, quali sono gli attori più affidabili, quelli che ci seguono anche meglio, quando istruiscono le pratiche, non lo fanno in maniera frettolosa al punto da indurci a volte in errore e non una corretta appunto valutazione del prestito che sottoscriviamo. Vedo tanti messaggi da parte vostra per un prestito di 9.000 euro in 24 rate con un'azienda, 14 di interesse, ci sollecita appunto un ascoltatore. Nicola, anche questo valore percentuale come lo giudichi? È comunque sotto il tasso di usura, è un tasso alto indubbiamente, ma è un tasso che si trova ancora sotto la soglia di usura, quindi è di mercato. Poi occorre considerare una cosa che forse abbiamo dimenticato di dire, che i tassi non sono uguali per tutti i clienti. Sono sempre di più gli istituti che costruiscono dei modelli di valutazione del cliente per creare dei tassi sartoriali sulla base della storia creditizia anche del cliente, quindi un buon pagatore potrà ottenere dei tassi migliori che non colui che ha una storia alle spalle invece problematica. Allora, Antonio da Torino ci scrive, anche questo è un altro tema molto ricorrente, quantomeno una considerazione ricorrente quando affrontiamo questi argomenti. Vedo che ancora oggi fanno di tutto per farti fare il finanziamento, io voglio pagare in contanti. Professor Filotto, si ricorda quando in passato abbiamo toccato il tema dell'acquisto del nuovo elettrodomestico in un centro commerciale piuttosto che del nuovo telefonino e della, non dico impossibilità, ma della forte difficoltà a poter pagare in contanti appunto il nuovo elettrodomestico, il nuovo bene appunto durevole che ci interessa. È ancora così pressante, come dire, l'offerta commerciale che intermedia anche quella del credito? Guardi, evidentemente possono esserci casi di tutti i tipi, ma sinceramente le pressioni, o meglio, un conto è proporre un finanziamento, ma nessuno è in grado di imporlo, quindi credo che il fatto di promuovere un finanziamento sia un fatto abbastanza comune, ma senza particolari pressioni. No, tra l'altro, ai tassi, credo che sia importante dire una cosa. I tassi alti, bassi, la ratio, cioè il meccanismo che sottostà a queste norme è quello di rendere i prezzi evidenti e quindi le persone che vanno a fare un finanziamento, che stanno considerando un finanziamento, possono scegliere il finanziamento con le migliori condizioni offerte sul mercato. Poi è il mercato a stabilire se il tasso è alto e basso. Un altro punto però importante in questo momento, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, nel TAEG oggi devono essere compresi anche le imposte, in particolare l'imposta di bollo. Che cosa succede? Succede che siccome l'imposta di bollo è fissa, sui finanziamenti piccoli si ha un effetto molto pesante, moltiplicatore della percentuale, bollo, tant'è che appunto ci ritroviamo con tasse che sembrano altissime, ma in realtà sono dovuti al fatto che si paga il bollo allo Stato. Ecco, lei diceva, professor Filotto, io le faccio ancora un paio di domande perché so che deve lasciarci e poi concluderò con Nicola Borzi. Il tema del finanziamento erogato presso il centro commerciale dove acquistiamo il nostro frigorifero. Come consumatori abbiamo tutto il diritto di scegliere il miglior finanziamento appunto per quel bene che ci interessa e però, come lei ben sa, molto spesso al centro commerciale non è possibile perché ci propongono un esclusivo tipo di finanziamento e ci possono anche dire guardi, o lo compra con questo il frigorifero nuovo oppure non le possiamo dare appunto l'opportunità di cercare altrove. È così rigida l'offerta al centro commerciale? No. No, ce lo assicura come rappresentante? Tutti i centri commerciali hanno più di una convenzione, quindi se non è la società A può essere la società B, e d'altro canto il consumatore che voglia pagare, utilizzando delle rate, può o eventualmente farsi fare un prestito personale oppure cambiare finanziamento dopo, ma presso i punti vendita della distribuzione commerciale sono normalmente presenti 2, 3, 4 convenzioni, quindi si tratta un po' come una persona negozia sul proprio frigorifero, anche sul prestito. Sì, professor Filotto, grazie per essere stato con noi, buona giornata, alla prossima puntata, grazie ancora. Nicola, volevi aggiungere qualcosa? Mi sembra che questa indicazione del professor Filotto sia fondamentale, cioè occorre assolutamente comparare le offerte, non a fidarsi mai alla prima che viene presentata, perché bisogna sempre ricordare che il dealer, cioè colui che consegna un bene o un servizio, ha un ritorno economico e quindi è in conflitto di interessi con il cliente dal proporre un certo tipo anche di prestito, perché ovviamente su quel tipo di prestito otterrà un ritorno diretto o come azienda o come venditore addirittura. Comparare, utilizzare il diritto di recesso di 14 giorni, se nei 14 giorni successivi si trova un'offerta migliore, ovviamente porsi anche il problema della possibilità di pagare in contanti, perché nessun tipo di pagamento può essere vietato per ottenere un bene o un servizio. A meno che non si arrivi al centro commerciale con una sospetta valigetta piena di banconote nuovi di zecca. Questo è un altro tema. E allora magari lì il commesso di turno può insospettirsi e non accettare quel pagamento in contanti, ma questa è un'altra storia. Giovanni da Pordenone, buona giornata. Sì, buondì, salve. Stavo chiamando perché praticamente il mio è anche una situazione che ancora non si era sentita, almeno oggi alla radio. Sì. In pratica mia moglie ha chiesto un credito a consumo di circa 12.000 euro e da una di quelle aziende che fanno tanta pubblicità in TV, che forse si è nominata anche prima, e ci hanno mandato avanti tutta la pratica. Mia moglie è proprietaria di una casa, ha un lavoro fisso. Su una cifra di 12.000 euro, praticamente quando abbiamo dato tutti i documenti ci hanno praticamente imposto che se non facevamo l'assicurazione sulla vita di 907 euro di costo non gli davano il prestito. In pratica ci siamo rivolti a un altro istituto bancario e abbiamo avuto la stessa risposta, questo dopo avergli dato tutti i documenti. Ora io dico, su 12.000 euro come si fa a chiedere 907 euro di assicurazione? No, poi, esatto, infatti ridicolo, e soprattutto come mai questi... Adesso mi viene da dire Balzello, poi ammettendo che l'industria abbia tutto il diritto di garantirsi appunto contro la possibilità che il consumatore diventi insolvente. Detto questo, perché la necessità della polizza esce sempre quando l'istruttoria praticamente giunge al termine, quando sei ormai sul punto di firmare il contratto, no? Ci hanno fatto stampare anche il contratto di una di queste note aziende, l'abbiamo spedito a Firenze, dopodiché tutto a posto, non ti preoccupi, mandato buste paga. Mia moglie non ha avuto mai debiti, è una situazione... No, un merito di credito immacolato, Giovanni. Lo immaginiamo, quell'azienda lì peraltro casa di proprietà senza mutuo, e cioè, quindi dico, se non è un cliente sicuro quello, mi chiedo chi lo è, e se hanno imposto questa assicurazione, siamo andati in un altro istituto, stessa risposta. Però ci hanno fatto fare tutti i documenti, Giovanni, prima. Mi scusi, quindi alla fine il prestito lei l'ha sottoscritto e ha sottoscritto anche la polizza perché aveva bisogno, per forza quando c'ha bisogno, quando ti prendono per la gola, Esatto, ha acquistato questo appartamento in contanti, gli servivano i soldi per i mobili, non arrivava per 12.000 euro, con tutto che abbiamo portato il contratto della casa di proprietà acquistato, niente da fare, neanche con il lavoro fisso. Giovanni, la ringrazio. Allora, quell'azienda di Firenze, Lumino Verde, abbiamo detto, una società leader in Italia, e a Salvadanaghi non ci vogliono venire mai. Detto questo, questa è una mia riflessione personale, Nicola, detto per un questo, importo così piccolo è necessario avere una polizza di questo importo. Effettivamente è una bella domanda, nel senso che bisognerebbe capire anche quanto è la durata del finanziamento, che età aveva chi l'ha contratto, eccetera. Però la somma mi sembra assolutamente fuori mercato. E poi c'è un problema ma anche tutte le garanzie di informativa offerte. Precontrattuale, perché non può all'ultimo momento emergere un obbligo di questo genere su un contratto di questo tipo, doveva essere chiarito fin dall'inizio. Allora, quindi cogliamo tutta la frustrazione e la rabbia del nostro ascoltatore. Vorrei sentire invece un agente finanziario che vuol dire la sua sul credito al consumo, Luca da Pordenone. Luca, buongiorno, rapidissimo se ce la fa perché ci manca un minuto e mezzo alla chiusura. Sì, molto molto rapido, buongiorno. Grazie. Non lavoro per l'azienda Colomino Verde, okay? Però da diversi anni opero in questo settore anche con un ruolo di sviluppo rete commerciale in una zona abbastanza vasta. E diciamo che volevo tornare un po' all'inizio del discorso quando si è parlato di trasparenza praticamente comunque di anche valutazione del merito creditizio basato anche sugli impegni, quindi sulla sovraesposizione del cliente. Quello che io posso dire è che comunque secondo me la trasparenza oggi non è ancora ben visibile neanche con la nuova riforma, soprattutto perché comunque ci sono ancora istituti bancari anche di primaria importanza che sono praticamente al top, dati Assofin tra i primi 10 operatori del settore, che ancora tendono a sovraindebitare il cliente purtroppo, soprattutto per il fatto che magari i clienti sono dei buoni pagatori. Quindi secondo me l'aspetto principale della riforma dovrebbe essere quello di fare una valutazione del merito creditizio, soprattutto legata al reale impegno del cliente. Luca, no, devo salutarla perché la trasmissione fra 20 secondi mi sfumano, ma abbiamo capito perfettamente l'essenza appunto del suo intervento. Credo che molte cose siano cambiate rispetto al passato, però ancora evidentemente c'è bisogno di ulteriore razionalizzazione. È un problema molto serio, è tanto più serio nella misura in cui il settore del credito in generale è in contrazione e quindi la caccia ai clienti diventa esplosiva. Basta guardare i piani industriali dei più grandi gruppi bancari nazionali delle ultime settimane, prevedono tutti un enorme aumento della raccolta o comunque delle erogazioni nei prossimi anni, ma se si va a fare la somma di questi aumenti, il mercato, a meno che non si rubino quote di mercato l'un l'altro e che qualcuno sparisca, diventa difficile che sia così. Nicola, grazie per essere stato con noi, vai a lavorare appunto alla tua guida pratica, perché anche tu sei nella rosa degli esperti che oggi sarà sottoposta al fuoco di fila appunto delle domande dei lettori. Devo ricordare solo in 5 secondi l'ultima cosa: ieri abbiamo fatto la puntata dedicata al bonus bebè e alle richieste di ritorno dei 1000 euro erogati tra il 2005 e il 2006 appunto a molte famiglie italiane che avevano un nascituro in casa da parte del Ministero dell'Economia. Ieri erroneamente in una dichiarazione il sottosegretario appunto alla Presidenza del Consiglio Giovanardi ai nostri microfoni ha detto che l'Agenzia delle Entrate sta inviando queste lettere. L'Agenzia delle Entrate ci ha detto di precisare, ci ha chiesto gentilmente di precisare agli ascoltatori che non sono loro, ma noi l'abbiamo anche letta in diretta e l'abbiamo vista che non è loro, ma è del Ministero dell'Economia, per cui una piccola precisazione di servizio che ci hanno gentilmente chiesto di fare. Buona giornata a tutti, a lunedì.